Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. E allora ci siete, cari ascoltatori, alle 7:20 minuti in punto, ben arrivati se vi siete aggregati solamente ora. Siamo pronti a leggere i giornali e poi a parlare di questa altra giornata che sarà forse decisiva. Avevano detto la settimana decisiva per l'elezione del Presidente della Repubblica. Sarà la settimana decisiva oppure andremo a domani, ce la faremo, che poi domani è sempre di questa settimana, oppure no? Chi lo sa, intanto non ce l'hanno fatta il primo giorno con Franco Marini e oggi cosa si profila? Beh, si profila, come raccontano i giornali, il duello a questo punto Prodi-D'Alema. Questo sarebbe lo schema più probabile, ma ne parleremo anche alle 8:15 con i nostri ospiti. Ci sarà il sindaco di Bari, Michele Emiliano, ci sarà l'onorevole Luca Squeri del Popolo della Libertà. Ovviamente anche le vostre chiamate oggi più che mai preziose per sentire l'umore del paese. 800 24 00 24, i microfoni sono aperti dalle 8, i centralini dalle 8, ma do già il numero di telefono e allora andiamo a sfogliare i giornali. In questo venerdì 19 aprile, i titoli intanto: il Sole 24 Ore alla doppia apertura economica, BCE apre sul credito alle piccole e medie imprese, ma anche Marini affossato in aula, il PD va in frantumi. E uno di questi temi della frattura e della rottura del PD lo troviamo sui vari titoli dei giornali, anche il Corriere della Sera: no a Marini, duello Prodi-D'Alema nel PD. Repubblica: Marini salta, ora Bersani punta su Prodi. Tanto che Libero scrive in prima pagina: torna odore di mortadella. Il Fatto Quotidiano: disastro Bersani, Marini affondato. Il Messaggero: Marini affondato, la carta Prodi. La Stampa: PD primarie lampo per il Colle. Il Giornale: esplode il PD. L'Unità: cade Marini, si cambia strada. Il Manifesto: provaci ancora, si insiste con la foto di Rodotà. Il Secolo XIX: Marini non va, PD a pezzi. Per Avvenire: fumo nero sul Colle. Insomma, queste sono le aperture che certificano una rottura, certo, una spaccatura molto forte all'interno del PD dopo che è naufragato il tentativo di far passare Franco Marini. Però non partiamo subito dalla politica, come al solito l'approfondiremo dopo le 7:30. Voglio partire da alcune segnalazioni di diverso taglio. La prima è una pagina molto intensa che mi ha molto colpito e vi segnalo sulla Stampa. La firma è Rafael Zanotti, la trovate a pagina 13. È il tariffario degli scafisti, ecco quanto costa inseguire il sogno italiano. Sta tornando la bella stagione e presumibilmente, come ogni anno, inizieranno gli sbarchi a Lampedusa, soprattutto sulle rotte delle persone che cercano una vita migliore, disperati che fuggono soprattutto dall'Africa. Rafael Zanotti racconta questa storia. Quando il comandante della Abis Bremen, nave cargo olandese, avvista il gommone alla deriva, è sulla rotta dal Portogallo alla Turchia. Siamo nel cuore del Mediterraneo. Decine di miglia marine dal porto più vicino, Pachino, provincia di Siracusa. Il comandante lancia un ordine: abbordare. L'equipaggio di questa nave cargo olandese raccoglie su questa nave tutto: carte d'identità, fotografie, penne USB, documenti, frammenti di vite forse inghiottite dal mare, come è successo a centinaia di profughi in questi anni. Spuntano foto di famiglia, ricordi della terra natia, numeri di telefono, contatti. Spunta anche un documento eccezionale, mai trovato prima, un tariffario, che viene anche pubblicato, dico io, pagina 13 della Stampa. Viene fotografato e messo in bella vista. È un foglio di carta righe strappato da un bloc notes, probabilmente lo aveva con sé lo scafista. Qualcuno ha scritto ordinatamente nomi e cognomi degli occupanti del gommone, accanto a ogni nome una cifra: $700-800. È il documento contabile dei sogni dei somali, il calcolo protocollare della speranza dei disperati. Ecco quanto costa attraversare il Mediterraneo in fuga dalla fame, dalla guerra, dalle discriminazioni etniche e religiose. $800 per le donne, 700. Ma fuggire dalla ferocia dei 15.000 guerriglieri al-Shabaab costa molto di più in realtà, perché prima di salire sul gommone di 7-8 metri stipato all'inverosimile c'è da attraversare il Sahara e costa altri $1.000. Dalla Somalia al Sudan, in camion o in jeep, poi il deserto attraversato con un'auto e sui cammelli, quindi il confine libico. Durante il tragitto le persone in fuga possono essere anche rapinate dalla polizia di frontiera, da banditi o addirittura dai loro stessi autisti e perfino possono morire. Secondo le stime di Fortress Europe, negli ultimi 10 anni 1.600 persone sono sparite lungo quel tragitto. Ebbene, questo è il tariffario, fa molta impressione vederlo pubblicato con nomi e cognomi. E 700, se è donna, oppure $800 pagati. Ecco il tariffario degli scafisti, questo costa inseguire il sogno italiano. Spunta per la prima volta su un gommone la contabilità della disperazione. Lo trovate a pagina 13 della Stampa, è un articolo che consiglio davvero a tutti di leggere. Tornando invece a cose minori italiane, prima di buttarci nell'analisi della situazione politica di grande stallo, è tornato Francone Fiorito, ve lo ricordate? Francone Fiorito che ha deciso di restituire parte del maltolto, come scrive il giornale a pagina 14, con Pier Francesco Borgia. Eccolo qui, 1.000.000, Franco Fiorito restituirà alle casse dello Stato 1.090.000 euro, questo è il senso di un accordo di massima raggiunto tra il difensore dell'ex capogruppo alla Regione Lazio, vale a dire l'avvocato Carlo Tormina, e la Corte dei Conti del Lazio. Fiorito era stato travolto dallo scandalo spese facili alla Regione Lazio e proprio ieri davanti al giudice del Tribunale di Roma è stato deciso il rito abbreviato del giudizio che arriva dopo le indagini della Procura, secondo il quale il capogruppo allora del PDL avrebbe dirottato su altri conti d'Italia e all'estero parte dei fondi destinati all'attività del suo gruppo consigliare al Consiglio regionale della Regione Lazio, ma intanto l'accordo restituisce 1.090.000 euro, questo l'accordo. A proposito di cifre, è un momento di austerity, è un momento in cui bisogna risparmiare ovunque, lo fa anche Papa Francesco. Trovate la notizia a pagina 19 del Giorno o il quotidiano nazionale, che dir si voglia, la spending review del Papa, anche lui, niente bonus per i dipendenti. Scrive Beatrice Bertuccioli, era una consuetudine per i 4.000 dipendenti vaticani, che però ci contavano, ma Papa Francesco ha deciso diversamente, non c'è la gratifica per la sua elezione, ma elargizione ai poveri. Era infatti tradizione in Vaticano di dare ai 4.000 dipendenti vaticani una sorta di una tantum quando c'è il conclave, dunque quando muore un papa, in questo caso si è dimesso Benedetto XVI, e c'è una nuova elezione. Questa gratifica però non è arrivata, il papa ha deciso bisognerà dare un'elargizione uguale ai poveri e dunque risparmio di 6 milioni. Nel 2005, racconta il quotidiano nazionale, dopo la morte di Giovanni Paolo II, i dipendenti vaticani trovarono nella busta paga 1.500 euro in più, 1.000 euro per la sede vacante e 500 euro per l'elezione di Benedetto XVI. Ma Papa Bergoglio ha da subito parlato di una chiesa povera e per i poveri, imponendo scelte all'insegna della sobrietà. E quindi anche la Santa Sede alle spese con un'oculata spending review per evitare che i bilanci precipitino ancora di più verso il rosso ha deciso questo. Niente gratifica, il che equivale a un risparmio per le casse vaticane di 6 milioni di euro. Anche il Papa, insomma, continua in questo solco già tracciato dall'inizio e c'è il risparmio vaticano. E va bene, che dire, siete pronti tra 5 minuti a buttarvi nell'agone della politica? Cercheremo di capire allora chi sarà questo benedetto Presidente della Repubblica. Dopo che Franco Marini non ce l'ha fatta, vi dico subito che, vi piaccia o non vi piaccia, i due nomi che ricorrono di più sono Romano Prodi e Massimo D'Alema. Oggi alle 8:15, tra tre quarti d'ora, il PD dovrebbe, con delle quirinarie lampo, decidere per presentarsi poi alla prima votazione alle 10, che non sarà quella decisiva, ma probabilmente la quarta potrebbe esserlo, con il nome nuovo. Chi sarà? 24 mattino. Ed eccoci qua, allora sono le 7:35 minuti, siamo pronti allora a capire cosa succederà oggi nelle nuove votazioni per scegliere il capo dello Stato. Allora, intanto cerchiamo di capire cosa è successo ieri dalla lettura dei giornali. Il titolo con la parola shock per Bersani, che trovate a pagina 4 del Sole 24 Ore, riepiloga bene quella che è stata la giornata per il Partito Democratico. Shock per Bersani, ora fase nuova, Prodi pronto a entrare in campo, scrive Emilia Patta. Bisogna prendere atto di una fase nuova. A questo punto penso tocchi al PD la responsabilità di avanzare una proposta a tutto il Parlamento, e questa proposta sarà, come nostro consumo, decisa con metodo democratico. Con questa nota ieri alle 18:30 Bersani ha preso atto della sconfitta politica nella proposta di Marini. E che succederà ora? Ci saranno le Quirinarie Lampo questa mattina alle 8, quindi tra pochissimo, credo convocato tutti i parlamentari del PD, e dovranno decidere nel giro di 2 ore, con una votazione, il nome che proporranno. Questo è lo strumento che viene scelto. La cronaca della giornata di ieri. Vi sottopongo 2 articoli, quello di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, lo trovate a iniziare dalla prima pagina del Corriere, il titolo: personaggi, battute, veleni, in scena il grande equivoco. In piazza Dalmazia a inaugurare il nuovo fontanello, mentre il Parlamento si incendia intorno a Franco Marini, quel Matteo Renzi che accese il primo cerino invia ai fiorentini un tweet leggiadro: per spegnere le fiamme nel PD l'acqua di quel fontanello non basterà di sicuro. Sarà anche uno scenario della Terza Repubblica quello cui si assiste a Montecitorio nell'afa di un aprile di colpo surriscaldato, ma certo assomiglia maledettamente alla prima, scrive Stella. Uno psicodramma collettivo di sfoghi, risate isteriche, veleni, depressioni come non si vedeva da anni. È stato Bersani. Chi ha tradito chi? È stato Bersani che, dopo aver garantito che avrebbe smacchiato il Jaguar, è andato a mettersi d'accordo col Cavaliere su un nome condiviso fino a farsi fotografare abbracciato da Alfano. E fuori campo un piddino anonimo dice: stanno a fa Telma e Luis. O sono stati i ribelli che hanno tradito, quelli che si sottraggono alla responsabilità di un voto a maggioranza? Beh, certo, le previsioni, Marini vince sicuro, per esempio, diceva ieri mattina Rotondi, non ha nemici, questa è la sua forza, invece non passa, ecco la cronaca dell'equivoco annunciato. Così anche su Repubblica, il retroscena di Francesco Bei, a pagina 2 e 3, racconta questo psicodramma collettivo della giornata di ieri sotto il titolo Quirinale, doppio flop di Marini, e Bersani chiama Berlusconi, ora la nostra scelta è Prodi. Questo è, secondo Repubblica, la certezza di Repubblica, cioè la certezza per Bersani, cioè l'ultimo tentativo fatto su Cassese e Mattarella e poi la svolta. Tanto che Francesco Bei scrive a pagina 2 di Repubblica: Prodi si prepara a un rientro trionfale dal Mali, si trova in questo momento in missione per l'ONU in Africa. Ma c'è un altro candidato pesante che oggi dovrebbe giocarsi la sua partita, Massimo D'Alema. Non ha rinunciato alla corsa della vita, quella che già perse una volta nel 2006 per i veti interni al centro-sinistra, dopo essere stato lanciato in pista anche dal Foglio. Mercoledì mattina l'ex presidente del COBASIR ha incontrato in gran segreto Silvio Berlusconi. Anche D'Alema dunque ha incontrato Berlusconi, e il consenso del PDL, anche se sofferto, è convinto di poterlo strappare. E pare così: Prodi o D'Alema, cari italiani, pare che il duello possa essere su questi due nomi. Io da giorni, ieri l'ho certificato, poi non l'ho detto, secondo me il Presidente della Repubblica sarà Massimo D'Alema, ma poi magari mi sbaglio, è un pronostico, è come gli altri, quindi passibile di vittoria o di sconfitta. Ieri, vabbè, vogliamo stendere un velo pietoso, perché poi ci accusano di prendere a volte tutto un po' sull'ironico e sul leggero. Vogliamo parlare dei voti arrivati a Valeria Marini, Veronica Lario, Giovanni Trapattoni, Rocco Siffredi, il Conte Mascetti, quello della supercazzola, il grande Ricky Tognazzi, il grande Ugo Tognazzi. Vogliamo parlare di questo? Ecco, e poi stendiamo un velo pietoso. Tutti i giornali raccontano la beffa del conte Mascetti che porta la satira nel palazzo. Per la verità, poi succede a tutte le elezioni del Presidente della Repubblica che ci si sbizzarrisce. Anche Michele Cucuzza ha preso dei voti alla seconda chiama. Anche Sabelli Fioretti di Un Giorno da Pecora ha preso un paio di voti e ha detto anche: ci penserò su questa notte e vedrò se valuterò la situazione. Ecco, c'è anche questo in questa giornata convulsa. Quello che succederà ora, Maria Teresa Meli lo scrive sul Corriere della Sera per quel che riguarda il PD, il segretario questa mattina proporrà 5 nomi. I 5 nomi sono Romano Prodi, Massimo D'Alema, Anna Finocchiaro, Luciano Violante, Sergio Mattarella. E su questi i deputati del PD, deputati, senatori, i grandi elettori si dovranno pronunciare. Secondo il Corriere raccontano che le Quirinarie siano venute in mente a D'Alema, le avrebbe suggerite lui a Bersani facendogli questo ragionamento, così ogni parlamentare può esprimersi, però poi quel voto vincola tutti a comportarsi di conseguenza anche in aula. E secondo il Sole 24 Ore, torno nell'articolo di Emilia Patta, D'Alema sembra che abbia imposto la segretezza del voto nella scelta delle Quirinarie. Staremo a vedere. Sa giocarsi sempre le sue carte in maniera molto astuta, politicamente astuta. E Marini? E Marini è incazzato nero. Questo scrive Repubblica. Alberto D'Argenio, a pagina 4. Amici di Marini dicono: è incazzato nero. Perché è stato mandato allo sbaraglio. Il presidente è incazzato nero col PD. Hanno gestito la sua candidatura nel peggiore dei modi. Così un amico nel pomeriggio scende dal primo piano di Palazzo Giustiniani e descrive lo stato d'animo di Franco Marini, che però dice: ora si scordino che ritiri la mia candidatura. È stata una pessima gestione, l'amarezza di Marini anche sul Corriere della Sera. Il lupo marsicano non molla. Io resto e venderò cara la pelle. Venderò cara la pelle, così Monica Guerzoni a pagina 10 del Corriere inizia l'articolo. Questo è lo spirito di Franco Marini, indomito, lupo della Marsica, terra di animali e predatori, indomiti guerrieri, amareggiato per il tradimento del PD, sono sorpreso e anche un po' deluso. E il giornale riassume così la vicenda. Alcuni amici dicono: Marini gli han fatto la supercazzola. E si può dire proprio in tutti i sensi, visto che è arrivato anche un voto per il conte Tognazzi Mascetti. Secondo Repubblica c'è un'altra notizia che riguarda Bersani, perché chiaramente c'è una base in rivolta, raccontano addirittura di qualcuno che ha bruciato la tessera, di sedi occupate, di dirigenza allo sbando. E per Repubblica la decisione di Bersani è questa: un minuto dopo l'elezione del Presidente della Repubblica mi ritiro dalla corsa a Premier. La notizia tra l'altro è dell'articolo di Goffredo De Marchis, che è uno sempre molto vicino a quello che succede attorno al segretario del Partito Democratico. Alla prova dei fatti, più che i parlamentari, è la nostra base che mi ha mandato a quel paese. Questa è una frase che viene attribuita a Bersani. La base mi ha mandato a quel paese. Un Bersani definito da Goffredo De Marchis tramortito per l'esito disastroso del voto su Franco Marini. Stanco, sfiduciato, non vuole farsi vedere così. Per questo è un fantasma nel transatlantico affollato da 1000 grandi elettori e centinaia di giornalisti. Nessuno lo vede, protetto dai commessi che gli suggeriscono i corridoi laterali per rifugiarsi nella sua stanza al primo piano. Solo i fotografi lo immortalano sorridente nell'emiciclo mentre vota e abbraccia Angelino Alfano. Insomma, un minuto dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, questo avrebbe detto e confidato Bersani ai suoi: mi ritiro dalla corsa per Palazzo Chigi. Beh, questa si è confermata, davvero è la notizia del giorno, al di là di poi come vanno le notizie politiche. C'è da dire che, al di là di diciamo come vanno le elezioni di oggi, Claudio Sardo, che è il direttore dell'Unità, e quindi giornale maggiormente importante oggi per capire cosa ribolle nella pentola del Partito Democratico, Claudio Sardo scrive in prima pagina: la sconfitta del PT è stata cocente, una personalità del valore di Marini esposta a un risultato che non meritava sul piano umano, su quello politico. Il gruppo dirigente ha sbagliato, scrive il direttore dell'Unità. Ha sbagliato valutazioni e strategia, e questo strappo consumato con una parte attiva del suo popolo, unito alla mancata elezione del presidente al primo turno, rischia ora di compromettere la proposta del PD. e questo è l'esordio, dunque il titolo dell'editoriale di Claudio Sardo è La sconfitta e il dovere. Poi c'è il solito graffiante Iena, pagina 3 della Stampa, futuro, Bersani è preoccupato per il futuro dell'Italia e viceversa. Questo è il solito Iena. Ma non è finita, sono tanti gli articoli, ci sono anche le interviste, anche Carlo Verdone, intervistato da Michele Anselmi sul secolo XIX, dice: ma che una sbandata, quello di Bersani è stato un suicidio politico. E da qui ripartiamo tra un attimo. E allora anche Carlo Verdone, attore regista, intervistato da Michele Anselmi sul secolo XIX, pagina 4 e 5, se sbaglio film io mi fanno un mazzo così, dice, parla di Arachiri, Pierluigi Bersani, mi dispiace dirlo perché ho votato il suo partito, ha fatto un autentico Arachiri, non ho proprio capito il senso di tutta l'operazione condotta da Bersani. Più che una battaglia non vinta, è stata una sconfitta, sbagliate tattiche, strategia. Io non sono presuntuoso, sono un attore. La politica è una cosa seria, però mi fa sorridere chi dice che Bersani esce indebolito da questa storia. Indebolito? C'è un terremoto in corso sotto i suoi piedi. Ripeto, è stato un suicidio. Insomma, anche Carlo Verdone impallina un po' questa scelta di Bersani. Dall'altra parte, attenzione, c'è sempre Rodotà che spera. Rodotà è il nome sul quale convergono il Movimento 5 Stelle, però attenzione perché nel Movimento 5 Stelle, racconta tutti i giornali, c'è un'apertura anche per Romano Prodi, che è il candidato renziano dell'ala renziana del PD. Per questo Romano Prodi sembra avere almeno più consensi e molti del Movimento 5 Stelle dicono, poi smentiscono, beh, però se si converge su Romano Prodi potrebbe essere un nome buono. Il Fatto Quotidiano tira in ballo Mario Draghi, addirittura potrebbe spuntare il presidente della BCE. Tra Prodi e D'Alema può arrivare anche Mario Draghi, non so se è fantapolitica. Edoardo Di Blasi, a pagina 5 del Fatto Quotidiano, sta di fatto che viene messo il nome anche di Mario Draghi. Chi vuole invece Berlusconi? Beh, Berlusconi è ovvio, ha incontrato, come scrive Repubblica, in gran segreto D'Alema, e quindi Berlusconi punterebbe a Baffino, anche perché come Libero continua da giorni, oggi c'è una foto, un fotomontaggio, c'è una fettona di mortadella in prima pagina di Libero con il titolo "Torna odore di mortadella per Libero, bisogna far tutto per fermare Prodi". Berlusconi l'ha anche detto, se viene Prodi dobbiamo andare tutti all'estero, e quindi è chiaro che in questo gioco il meno peggio per il centrodestra viene identificato in Massimo D'Alema. Libero, il cavaliere tagliato fuori spera in Baffino. Tra l'altro viene attribuita da Tommaso Montesano su Libero a pagina 7 questa frase: a Berlusconi sono dei dilettanti allo sbaraglio, riferito alla sinistra, sono un incompetenti e volgari, a partire da Milena Gabanelli, che Beppe Grillo avrebbe voluto al Quirinale, la signora di Report che vuole mandare tutti in galera. Poi finiva che al suo posto su Rai 3 ci sarebbe andato Prodi. Questa è la battuta di Berlusconi. A proposito di Milena Gabanelli, devo dire chapeau, pare che domenica o comunque una delle prossime puntate di Report, sapete a cosa è dedicata? Agli scandali o qualcosa da indagare sulle onorificenze al Quirinale. Beh, ci starebbe un applauso di 10 minuti per Milena Gabanelli se così sarà confermato. Tanti voti li ha presi anche Sergio Chiamparino, che dice: ma no, vabbè, mi sono sentito come Sofia Loren al momento dell'elezione di Giovanni Leone, quando si sentiva Leone, Leone, Giovanni Leone, Sofia Loren. Ecco, mi sono sentito come Sofia Loren. Ma Chiamparino, che è stato votato dai renziani, dice: il mio candidato ideale sarebbe, e spero che vinca, Romano Prodi. Insomma, pare che Romano Prodi abbia più voti di D'Alema. Io però pronostico D'Alema, perché non lo so, così, pronostico Massimo D'Alema. La politica è anche l'ennesima giornata tormentata per Claudio Scajola. E hanno fatto un'altra perquisizione nella casa per problemi legati alla casa. Sono un perseguitato. Un'altra inchiesta sulla villa di Scajola. Questa non è quella a sua insaputa, è quella a sua saputa, la villa dove abita, a Imperia. Abusi edilizi e finanziamento illecito. Questa l'accusa, dice il Corriere della Sera con Erika Della Casa, e lui risponde: vogliono la mia vita. Se è così, devo dire che un colpo al cuore. Quando ho saputo della perquisizione mi è anche venuto. c'era mia suocera al momento della perquisizione, una donna di 80 anni, combattiva, poi è arrivato mio figlio, un'ispezione avvenuta in ogni singolo angolo della casa, armadio, cassetto. Il mandato era firmato dal pubblico ministero, insomma uno scaiola che dice si accaniscono su di me. Effettivamente, sta storia di scaiola e la casa, ci sarà una parola fine, e le case per la verità. Scaiola, la maledizione delle case anche per la stampa, sconti da un amico per la villa. Questa è l'accusa, sconti da un amico per la villa. Certo, c'è che anche da dire che insomma... Niente. Scaiola, perquisiti la villa e gli uffici anche per il Secolo, ancora indagini, la maledizione di casa Scaiola per Libero, effettivamente un po' di maledizione lo è. La notizia di cronaca più approfondita dai giornali invece è il fatto che la condanna ad Alberto Stasi, o meglio la soluzione di Alberto Stasi, è stata cancellata dalla Cassazione. Tutto il processo da rifare per l'omicidio di Garlasco, tutto da rifare, nuovo processo per Stasi. Ci sono giornali che si interrogano sempre su questa giustizia che va e viene, sentenze che si contraddicono. Dopo il caso Amanda Knox, ecco un altro caso, tanto che Libero con Cristiana Lodi dice ormai sembra il terzo grado di giudizio quello della piazza, affidato agli umori della gente. C'è il papà di Chiara, intervistato dal Messaggero, che dice i giudici finalmente ci hanno ascoltato. Dopo due giorni barricati in casa, dice sinceramente, dopo due sentenze la soluzione era lecito aspettarsi una conferma di quei verdetti, e invece ci hanno ascoltato. E Alberto Stasi, che ritorna imputato, che dice io non capisco davvero. Questa è la notizia che trovate più sviluppata sui giornali, ma noi ci fermiamo, è tempo di giornale radio, e poi ripartiamo con gli ospiti. La giornata ancora di fibrillazione politica per l'elezione del Quirinale dalle 8:15.